ciò che è il sistema repressivo e come si abbatte sui nostri territori in maniera incessante, per ricordare come appena i movimenti sociali iniziano a toccare gli equilibri economici del nostro bel paese, gli equilibri di potere, allora arrivano denunce, arrivano tante cose. No, gli era arrivata un'ansia tutto dal cielo. Sembra che qualcuno abbia scritto qualche tempo fa che le forze di polizia fossero dello Stato fossero uno strumento di oppressione da parte della classe dominante. Non saprete mai chi è che ha detto questa cosa, anche perché è una cosa che vi teniamo nascosto questa cosa. Matteo, smetti. Volevo dare un indizio ai nostri ascoltatori. Per individuare chi l'ha fatto, sappiate che non viaggiava con Trenitalia. Viaggiava con una compagnia ben diversa che si chiama Kaiser. Più efficiente. Ma procediamo. Noi questa è Banda Armata, dicevamo, e andiamo in onda in questo caso in maniera anomala, però di consueto andiamo in onda il mercoledì alle 18:30 e in replica sul Fuori Onda Radio, chiaramente, cioè la web radio più famosa e acclamata di tutto il collettivo più occupata, e andiamo anche in replica su Radio G Roma il venerdì alle 17. Olle! E anche su Transizione di Fase. Ti manca l'emittente Radio Ciroma 105.7. E anche su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Il martedì alle 20. Ecco, detto tutto, detto questo, io farei una cosa, però, una cosa veloce. C'è un messaggio per voi. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and la you're beginning to feel the heat, Yamalando. Well listen, Buster! You better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness! One step beyond! Esco, riprendiamo dopo questa canzone che era l'alternativa inglese del Yamanans, One Step Beyond, parlando invece di qualcosa che ci fa andare indietro, che è stato una cosa, l'incendio, parliamo dell'incendio del centro sociale Angelina Cartella a Reggio Calabria. In una regione come la Calabria, in cui è difficile alzare la testa e difendere i propri diritti, questo è un duro colpo che ci ha colpito anche noi, insomma, un laboratorio politico, un soggetto sociale che in una città soprattutto come quella di Reggio, che è piena di contraddizioni, piena di problemi, piena di disagio, che vengono colpiti in questo modo gli spazi di socialità, gli spazi sociali in questo senso, diventa un elemento che peggiora la situazione complessiva di quella città. L'altra sera, andando alla notizia, si sono introdotti all'interno del ignoti, si sono introdotti all'interno della piccola cucina che era all'interno del centro sociale e hanno appiccato il fuoco con del liquido infiammabile all'interno di questa stanza, il che ha dato subito fuoco all'interno, ha fatto prendere subito la struttura che era composta in grande parte di legno. Quindi, per farvi capire, è crollato anche il tetto, quindi ci sono i danni sono importanti e quindi ci sarà da capire adesso come riprendere il lavoro. I compagni del cartello si sono trovati con un pezzo di carbone in mano e ieri hanno avuto una lunga assemblea per cercare di capire come riprendere quel percorso, come riprendere in mano quella goccia di splendore, per dirla alla De André, che soprattutto in città come quella di Reggio sono pesanti. Vuole dire qualcosa il caro Matteo Leta? Che vuoi dire? Qualcosa di terrificante, quello che è successo, e la matrice probabilmente non è solo quella di gruppuscoli dell'estrema destra. Evidentemente il lavoro che i compagni facevano era un lavoro che nella provincia andava a intaccare gente che faceva soldi a palate con delle situazioni ben poco chiare. I compagni sono stati pronti a denunciare, questa non è probabilmente nient'altro che l'ennesima ritorsione, la più pesante probabilmente. Per tirarci un po' d'umore, vogliamo andare un pezzo o vogliamo continuare con le notizie? Io chiedo al nostro Peppe Lounge, a cui sono cresciuti i capelli e che adesso come nome di battesimo a Samuele. Secondo me possiamo andare un pezzetto, cosa dice lei? Cemento armato, la grande città, senti la vita che se ne va. Vicino casa non si respira, è sempre buio, ci si dispera. Ci sono più sirene nell'aria che canti di usignoli. Con il sottofondo di Cemento Armato delle Orme riprendiamo con delle news dalla Grecia. Bene, come dire, in Grecia si svegliano quasi tutti. Leggiamo una dichiarazione di Venizelos per aprire la parentesi sulla Grecia. Venizelos, per chi non lo sapesse, onestamente prima, fino a poco fa non lo sapevo neanche io, è il leader del PASOK, il partito socialista, vabbè, socialista, insomma, partito di centrosinistra della Grecia. PD, insomma. PD in una cosa. Sì, PD con una rosa come simbolo, insomma, invece di una moscella d'olive e di qualche lettera tricolore. Venizelos dice: qualcuno ha messo i propri interessi al di sopra di quelli della nazione. Ah, cazzo, l'ha capito finalmente. Si possono dire le parolacce in radio? Sì, oggi sì. Va bene, vista questa banda male armata, tutto è concesso. Il problema fondamentale è che quindi addirittura anche lui se n'è accorto. E invece. E quindi sentite, allora forse il popolo greco è stato devastato dalla crisi, costretto a pagare debiti non suoi, di un sistema che non ha voluto? No, Venizelos dice che in verità la colpa è del leader politico di Syriza, partito uscito con una maggioranza parlamentare piuttosto forte dalla maggioranza, oddio, con un gruppo parlamentare piuttosto forte dalle ultime elezioni, che non ha voluto adottare le riforme dell'austerity. Cioè, come dire, tu non vuoi adottare quello che ti dicono dall'alto, metti gli interessi tuoi al di sopra di quelli della nazione, come se gli interessi della nazione fossero gli interessi della BCE. Abbiamo una risposta editoriale a questo. La rifaccio meglio io. Ecco, non sa fare le pernacchie, purtroppo il nostro regista è un problema da ridiscutere poi in redazione. In effetti, cosa è successo in Grecia? In Grecia sono successe delle elezioni e il blocco compatto che appoggiava le politiche di austerity della BCE, dei vari Lagarde, dei vari Draghi, cosiddetto Black Bloc, che se bloccassero loro sarebbe meglio. C'è un CTRL Altkanch contro l'Altkanch per questi sti cosi qua. No, vabbè. Il blocco che favoriva queste riforme è uscito senza una maggioranza. È uscito quindi con 150 seggi su 300 che sono in tutto il Parlamento ellenico e di conseguenza non poteva formare una maggioranza parlamentare. Syriza, come il KKE, come anche la destra fascistoide entrata in Parlamento, hanno fatto una campagna elettorale fondata sull'austerity, quindi sarebbe stato un suicidio politico, oltre che un suicidio anche della nazione stessa, continuare con quelle proposte che hanno portato, ricordiamolo, a un giovane greco disoccupato su due, a un taglio di salari minimi, a una disoccupazione di massa, al fatto che gli ospedali greci non potessero neanche pagare le medicine per alcuni tipi di patologie più gravi. E questo è un dettaglio da non tralasciare, oltre ovviamente a una privatizzazione di massa delle infrastrutture greche, non ultimo il Pireo, il grande porto commerciale di Atene. E allora quindi è successo che è fallito anche il governo ad interim. Si sta cercando di creare un esecutivo di transizione che porti la Grecia a giugno, dove in cui ci saranno delle altre elezioni, perché appunto non c'è un governo in Grecia e non può esserci perché ma scusa, quindi in Grecia non ci sono i tecnici, cioè non c'è nessun tecnico in riparare ci sarebbe un idraulico, non c'è un tecnico. L'idraulico c'è, tecnici che governano no, fino a poco tempo fa c'era un governo di un tecnico, Papadimos, che era un banchiere pure lui della Goldman Sachs, giusto per non farci mancare nulla. E torna pure sta Goldman Sachs, mi ricorda qualcuno tipo ogni riferimento a fatti cose presidente del consiglio è puramente casuale. Ma la Goldman Sachs è un club di bridge in cui si riuniscono, non è una banca d'affari, di investimento, consulenza finanziaria, è un club di bridge, va bene. Questa critica alla Goldman Sachs, insomma, deve finire. Cazzo, la persona non posso neanche andare a giocare a bridge in un grattacielo di New York. Mi sembra eccessiva, ecco. Io credo che i giocatori stiano giocando, però evidentemente forse il gioco non è quello che stiamo dicendo adesso. Il gioco non vale la candela, probabilmente, insomma. Non approfondiamo la questione della candela. Il fatto quindi è che la Grecia non ha più un governo e non l'avrà quantomeno fino a giugno. Tutto questo comporta uno sconquasso sui mercati finanziari, perché i bonus spagnoli, che non sono una cover band di U2 ma sono i titoli di Stato spagnoli, sono al massimo storico. I nostri famosi sono saliti anche loro a un nuovo massimo. E approfondiamo il discorso. C'è stato dalla regia un viene richiesto di ripetere la battuta rispetto ai bonus. I bonus non sono una cover band degli U2. questo è stato un tipico esempio di caos sovradimensionale, e comunque voleva essere un applauso alla tornati porta. Dalla dimensione sovratemporale del buco quantico, possiamo tornare a parlare. Ma prima di tornare a parlare del legame democrazia-mercati, io vorrei lanciare un pezzo, un grande pezzo. Vai con Eugenio Bennato, vai. Questa musica s'atta cagnò, dimmi frigando, facimmi paura, e cascuppetta pulimmi cantò, e cascuppetta pulimmi cantò, e fa, e fa. E mo cantammo una nuova canzone, tutta la gente se la stampano, noi combattimmo vorremmo. La terra nostra in un salto tu qua, la terra nostra in un salto tu qua, tutti i paesi rabbassa la casa, la società è buona luce, pura Calabria ma si è arrabutata, e sto nemico facimmo dramma, e sto nemico facimmo dramma. Paura, non sapeva buona qual è la verità, povero lupa che magna e creatura, e un piemontese che vimma caccia, e un piemontese che vimma caccia, e fa, e fa. Cercate, scordate, buonomma, chi c'è fa guerra non bene pietà, chi c'è fa guerra non bene pietà. Omma se nasce brigante se mor, ma fino all'ultima mimma spara, e si morimma manata nuciore, è una preghiera per sta libertà, è una preghiera per sta libertà. Omma se nasce brigante d'amor, ma fino a nord ma mi sparà, e si muimma e manale nuciore, è una preghiera per sta libertà. Omma se nasce brigante d'amor, ma fino a nord ma mi sparà, e si morimme me la denunciore, è una preghiera per sta libertà, è una preghiera per sta libertà. Ebbene, ecco dunque ritornatici dopo questa grande canzone Brigante Semora, che ci fa ricordare dei momenti piuttosto particolari della nostra storia, in cui i piemontesi sono scesi e hanno ammazzato 8.000 persone, così, giusto perché... I piemontesi della Banca Centrale Europea, se non sbaglio. Ci arriviamo a questo. A proposito di Banca Centrale Europea, vi abbiamo lasciato prima della canzone con un tema da snocciolare, e cioè il rapporto democrazia-mercati. Ebbene, lo stallo politico in Grecia ha provocato, diciamo, una calata totale delle borse, e quindi un aumento spaventoso dello spread, dei bonus, la cui battuta non voglio ripetere, e di tutti gli stati italiani, e ovviamente anche della borsa greca. Ecco, questo era per bonus, era un richiamino semplice. Pongo un problema politico piuttosto serio su questa questione, ma poi lo approfondiremo dopo. Insomma, in effetti questa accaduta assieme alle dichiarazioni per esempio della Lagarde o di Borg, il ministro delle finanze svedese, non il tennista, attenzione, che si pongono tutti su una stessa linea, cioè la Grecia deve avere un governo forte, stabile, che non faccia altro che sottomettersi a certe logiche, che sono quelle delle famose lettere dei vari Draghi, dei vari Trichet, delle varie Lagarde, dei vari Strauss-Kahn e quindi anche della Merkel stessa, quindi ai vari diktat che sono queste proposte fantomatiche per uscire dalla crisi che abbiamo già approfondito. Ma il punto centrale è un altro, c'è un bivio che emerge da questa situazione. Il mercato vuole un governo stabile che faccia ciò che il mercato dice e ciò che chi gestisce il mercato vuole, ok? Quindi per avere il mercato bisogna avere un governo forte, stabile, non democratico. Il Financial Times riguardò un ipotetico referendum sul debito pubblico greco, in cui votassero in effetti i greci, pubblicò un titolone sulla prima pagina: è come chiedere al tacchino se vuole suicidarsi. Già questo può farci capire meglio questo legame. D'altro canto, però, visto che teoricamente la democrazia dovrebbe essere un valore, meglio ancora in Grecia, per delle ragioni storiche non proprio da poco, evidentemente il mercato non è una condizione necessaria, è una condizione anzi necessaria il fatto che non ci sia il mercato, altrimenti cosa succede? Altrimenti succede che chi ha il potere privato influenza le decisioni del potere pubblico, diceva John Dewey, un filosofo all'epoca, questa la tagliamo. Però io volevo dire solamente una cosa, per rimanere in tema mangereccio: dove c'è mercato c'è casa, come citare la Barilla, insomma, no? È questo secondo me la verità di fondo che tu non riesci a mettere, Matteo. Il mercato è l'unica garanzia possibile, praticabile per la salute dei cittadini, di tutti i cittadini. Io chiedo alla regia di tagliare questo ultimo pezzo perché va bene la coglionetta, però questo mi sembra eccessivo. Quindi insomma l'out-out non è da poco. L'out-out è: i mercati vogliono un governo stabile, il popolo non si è dato un governo stabile perché la situazione politica è ancora così frammentata. L'alternativa politica che pongono i mercati è quella di costringere i greci ad accettare un governo altro, mentre ancora i greci, evidentemente, per come emerge dalle urne, hanno un'idea ancora sfumata, perché non riescono ancora ad andare oltre alle logiche dei partiti, degli elefanti, poi della grande balena che va dal centrodestra al centrosinistra, ma il movimento di piazza che sta uscendo non è ancora completamente sfumato, non è ancora completamente emerso, è ancora sfumato, la situazione politica è in fase più o meno di stallo e questo ai mercati non va bene. La democrazia, il voto più o meno democratico uscito dalle elezioni in Grecia, più o meno democratico per tante motivazioni, tra cui la legge elettorale greca, è ciò che ne è uscito non va bene. E visto che il mercato non si può riformare, perché il mercato è signore nostro padrone, bisogna riformare la democrazia. Certo, se tu ti rompi una gamba, cosa fai? Ti fasci la testa, o sbaglio? Più che altro la taglio e la privatizzo. Eh sì, però mi sa che se privatizzi la capa tua non è che usciamo dalla crisi, ci vuole qualcosa. Davvero non usciamo dalla crisi se privatizzo la mia testa? Possibile. Lo scopriremo solo vivendo. Ecco un pezzo che parla di storie di gente come noi, storie di lavoratori. Lavoratori! Siente este tiempo, no para y no vale nienda, en la vida es tienda, hasta fissamente ambita senza paura. Ma io lo sotto una divina tu. Ma papà, alla tua età i tempi cambiano, questo non si fa. Le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale. Viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare. Fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare la rivolta, non ribaltare. Ma papà, alla tua età i tempi cambiano, questo non si fa. Le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale. Viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare. Fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare la rivolta, non ribaltare. E riprendiamo dopo questa canzone che parla di problemi di chi lavora, di chi fatica, delle sue prospettive, le sue speranze. Riprendiamo con una notizia che viene da, appunto, da Napoli, città da cui, il cui dialetto avrete riconosciuto all'interno di questo pezzaccio. E che succede a Napoli, caro Matteo? Niente, leggiamo un comunicato giuntoci da dei compagni napoletani. E che succede? Dunque, domenica 13 maggio, sulla pagina napoletana di Repubblica, compare in prima pagina un articolo titolato Equitalia, indaga la procura, un cartello dietro i disordini. Tan tan tan tan tan tan tan tan, lo squalo. Quello stradale, più che altro, come cartello, ma invece no. Si tratta infatti dell'ennesimo pezzo, nel giro di una sola settimana, in cui si riportano come oro colato le parole, le supposizioni, le invenzioni dei responsabili napoletani delle forze dell'ordine. I compagni di Napoli scrivono: l'articolo fa schifo, ma fa anche peggio, perché la penna di Concita Sannino, ormai tutte le intellettuali giornaliste di sinistra si chiamano Concita a quanto pare, non vuole riportare e commentare quanto successo fuori Equitalia venerdì mattina, venerdì 11. Il suo pezzo infatti finge di essere un pezzo giornalistico, quando invece è altro, è un articolo inoltre, è un ready made, diciamo. Attenzione, dopo ready made, cumulativo anche della battuta prima di cartello stradale, e un applauso, ecco a voi. Davvero banda amaramente male armata, questa puntata fa veramente schifo, fa veramente schifo, io mi dissocio. Notate che almeno banda armata è una trasmissione che è capace di fare autocritica. Io noi siamo, come scritto anche nella reclame, il Forrest Gump antagonista. Io mi dissocio da me stesso dopo questa trasmissione. Tra parentesi, comunque continuiamo. Le caratteristiche dell'articolo infatti assomigliano molto a quelle del messaggio mafioso. Come un messaggio mafioso, infatti, l'articolo manda due avvertimenti diversi. Uno rivolto ai compagni, ai militanti politici, un altro rivolto ai lettori. Ai lettori sembra dire, vi ricordate quel titolone in prima pagina della trasmissione televisiva, dell'annuncio di Monti sulla tensione sociale che cresce, tra parentesi, chissà come mai, del manager cambializzato a Genova? Bene, prendete tutto questo e mischiatelo con quanto è successo venerdì mattina davanti alla sede di Equitalia. Il fine qual è? Terrorizzare lo spettatore di modo che non agisca, che sia paralizzato dinanzi a delle manovre che cadono come delle scuri, che si chiamano macelleria sociale, che sono riconducibili alla macelleria sociale, e che intanto veda dipinti quelli che riescono a protestare, che riescono a uscire fuori dalla nicchia d'alienazione nei quali ci si è sprofondati, dicendo no, questo non mi va bene, il mio interesse non è quello delle banche, il mio interesse non è quello del grande capitale, il mio interesse non è quello della grande borghesia, probabilmente. Questo è il messaggio che, secondo i compagni napoletani, l'articolo su Repubblica dava ai lettori. Ed è il messaggio che manda loro, e che manda anche un po' a tutti noi. Qui un messaggio rivolto, quindi, quello latente, è un messaggio appunto rivolto ai militanti politici, a cui si dice: il governo Monti deve andare avanti ad ogni costo, voi non dovete rompere le palle. Citazione testuale. Se ci provate, siamo disposti a inventarci di tutto, come abbiamo fatto d'altronde con i Notav, e basti vedere il carcere duro e preventivo dato a Giorgio Rossetto. E in effetti, che la repressione dello Stato esca fuori quando un movimento vada a intaccare logiche della classe dominante, questa è una storia che in Italia conosciamo e non solo, conosciamo abbastanza bene, no? Partendo da Genova, arrivando in Ottava, arrivando al 16 ottobre, al 15 ottobre di qualche tempo fa, abbiamo visto che quando il popolo fa paura, la repressione statale diventa qualcosa di più che crudele. Vuole aggiungere qualcosa il nostro... Eh sì, due cose. Mi ricordo qualche anno fa, dopo l'11 settembre, il famosissimo 11 settembre, c'è stato una serie di veline che lo Stato ha mandato alle agenzie stampa per far sì che facessero montare la questione della paura. E non a caso ci fu una notizia che forse qualcuno si ricorderà, di 10 marocchini che arrestati mentre cercavano di mettere l'andrage nell'acqua. Andrage, non mi ricordo quale batterio, quale elemento nocivo per l'uomo, nell'acqua potabile di Roma, provocando un'ecatombe, chiaramente con lo solo scopo di mandare un messaggio poi magari a chi, a Berlusconi, bastava un sms in questo caso. Basta mandargli la nipote. La nipote di Mubarak, eh sì, questo è un argomento che ci ha reso tutti, ci rende tutti noi molto sensibili. Il bunga bunga è stato è una cosa che ci unisce. Ma tornando a noi, i giornali pubblicarono, i telegiornali, per una settimana e mezza, continuarono a parlare di questo pericolo, di come poi a un certo punto le forze dell'ordine riuscirono a sgominare questa pericolosa banda. Il fatto sta che poi in realtà non c'è stata nessuna inchiesta, nessun arresto, né tantomeno c'era qualche marocchino che voleva avvelenarci tutti. Il punto è proprio questo, che l'informazione è al soldo di qualcuno, cioè di chi può permettersela. L'informazione difende, insieme alla repressione fisica, alle denunce, come parlavano bene, dicevano anche i compagni di Napoli, è un altro degli strumenti repressivi. E a proposito di altri strumenti repressivi, quando si tratta di repressione statale, a volte la repressione è anche non statale, parastatale, cioè hanno subappaltano certe volte anche la repressione. Basta, e qui vogliamo tornare magari anche in chiusura sulla questione dei compagni del Cartella, dove magari la mano non è statale, la mano non è istituzionale, però probabilmente il profitto, il vantaggio, il mandante forse è un ambiente di quelli che sta in quella zona, che molti piace chiamare la zona grigia, che è proprio un tema fantascientifico. Cosa ne pensi? Penso che in quelle zone il concetto di istituzione sia molto probabilmente da rivedere. E lo stato parallelo è qualcosa che, insomma, le stesse persone che sono stato parallelo sono anche dello stato ufficiale. Chi si oppone finisce flambé poi alla fine, no? L'abbiamo visto ieri e l'altro ieri, no? Eh sì, è vero, è proprio così. E in chiusura cerco di fare un tono adatto a prepararvi la battuta con cui chiuderemo. C'era la battuta, l'applauso e dopo la sigla, ma nel caso no. Non è una battuta, io vorrei lanciare il televoto per gli ascoltatori per scoprire chi era questo che viaggiava in treno e diceva che le forze dell'ordine sono dello Stato, sono forze dell'oppressione della classe dominante. L'altro indizio è che gli piacevano i treni e anche portare il moscone. Noi vi diciamo solo questo. Per maggiori informazioni, per comunicarci la scelta del vostro televoto, mandate un sms a Matteo, oppure dovete trovarlo anche su Facebook e operare quella simpatica forma di comunicazione che è il mail bombing. Banda male armata finisce qui. Un saluto da Samuele, Matteo. Prego. Però non lo sapevo, sta cagando.